Attenzione 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Hola? Hola, attenzione canale 10, c'è qualcuno? Hola? Hola, attenzione canale 10. Ah, sono Gianni! Ma se ne andò, ti stavo chiamando su 23, ho detto ma esci a vegetore. E ormai, sono già pieno oggi. Buonasera comunque. Buonasera a chi è? Eia, eia. Mi sa che prendeva burro. No, davvero? Così mi sono dicendo. Che oggi ti puoi allungare, mamma mia. Te l'ho detto io ho sceso che erano le 4:30, ho fatto il giro umano e ho visto l'aria come era, ha detto cammina in macchina che prendeva sono dei trunelli, intendo di droga e anche di fulmini no? Oh, fulmini no, perché c'ho le serate abbassate. Ma nell'apparato già lo senti? No. Che passa che no, ne carica? No, qua no tu, se no te l'avevi detto. Qua non è sento. Ma glielo fa sì. Un po' le sento le scarpe qua. Speriamo che quando sto a scendere io sia finito tutto. Uff, che palle. E se no, farà rudire. Ah, se no lo mandare a giura, ci va a giro giro e poi torna. No, non lo fa il mio, non è abituato. Ah no, non è di quelli che non va da solo. No, io molte volte lo prendo il libro e se ne va di fronte. Però quando vede si costureggia e ne torna. Ma qua mollarlo così ci sono troppi pitbull in zona. È tutto vero di pitbull. No, è anche bisogno più che altro di questi cani minoriti, gabba già non bevi. Ah, il pincher. Sì, lui, Bassotti un bel bisogno. E anche qua qualcuno di Bassotto c'è, in questa zona. Ma di più sono i pitbull e gli hamster. E c'è gente che li lascia liberi anche, senza guinzale, senza museruola, senza nulla. Sì, sto chiamando attenti che non ci pigliano una vera contravenzione. Ma che so ti fede di vigili, L'altro giorno gli ho dato la voce a uno che lo lascia libero, gli ho detto, ma perché non li metti? Ce l'ho in mano, non vedi che ce l'ho in mano con il guinzale. Ce l'ho in mano ma non viene buccio. E se ti fuggi dalla zona, mangia tranquillo, lui era dove si cazzo, sì. No, i vigili che non lasciano perdere nulla, Che va senza guinzaglio, il pitbull senza museruola, e castagne già le volte. Ma se hanno paura a venire in questa zona, hanno paura. A chi non mi viso sempre senza guinzaglio? C'è qualcuno che lo lascia senza guinzaglio, ma sono cani tranquilli. E giocano anche con Tyson, le cose giocano, e ci sono quelli che sono pericolosi, li lasciano lo stesso senza guinzaglio. Anche se senza guinzaglio non si dovrebbero lasciare nessun tipo di cane. Oh, qua un giorno ne hanno visto uno che era libero, ci sono filmati, armato, hanno mandato dei documenti e gli hanno detto perché lo lascia libero. Diciamo no, non fa nulla, non ci interessa a noi se non fa nulla. Il cane quello è pericoloso, deve tenerlo a guinzaglio e con la museruola. Ti hanno fatto una contravenzione di 1500 euro l'anno fatto. È bene stia. Perché questi cani qua ce l'hanno sempre in gentaglia, capito? Per proteggersi si usano questi cani, tipo spacciatori, roba così, tutta gente così ce li ha. Sì, ma pisciglieni, e si racciappano senza guinzaglio e senza museruola, sono cavoli acidi, sono. Io sono tranquillo, io li metto sia guinzaglio che museruola, il mio è prevedibile, capito? l'altro giorno questa signora l'ha toccato, prima l'ha toccato la figlia, gli ha dato tutta scondizionata, è andata a toccarlo lì, che se gli dovrebbe abbricchiare il latte, ma non voleva la museruola. E mi ha fatto così, c'è poco da fare, non dà confidenza al nemico. Infatti, no, deve essere proprio calmi. Ecco, datevi tenere a guinzaglio e a guanzeruolo, vi tenere. Infatti ogni anno va, ha imparato il burugidastro, che è un cane che gioca. Tronelli e me, niente, vado, certo. E alla gente, ogni altro, bravo. Mi, gigani mie, dai da me. Anche giuro drone se questo vicino a me. E allora, te, se non va manco giù botta, chi ha già comparato lo scacciacqua e gli stava stretto, alla fine ce l'ho buttato, perché se lo pisciava sempre, gli stava stretto. Oh, è troppo preciso, gliel'hai preso. Sì, ne ho almeno di due taglie più grandi da prendere. Infatti. Ma poi com'è cresciuto, capito? Com'è cresciuto? Prima gli andava bene, poi piano piano gli stava stretto, allora non ero più messo. E quello lì era bello, cosa? Lo colpiva dalla coda sino ad arrivare alla testa. Era proprio tipo, cosa ti può dire, un piumone, là. No, il mio se l'ha stracciato tutto, infatti non ne ha già più pigliato. Andava già messo così, boh, non te ne piglio più. E allora gli dava fastidio, se l'ha stracciato così è perché gli dava fastidio addosso. Io non è abituato, ma è buccia, non è piaciuta, deve darci, e ce l'ha stracciato. Si sentiva un colpo estraneo sopra. No, e molte volte, dai la medaglietta, gli ho attaccato la medaglietta, con la scritta e tutto, anche il numero di telefono, e cosa ce n'era stracciata? E come ha fatto? Non le deve messa nel collo. Io ho messo nel collo, ma cosa da... si è agganciato e si è raffrazzata. Oh, yeah. No, Teso ce l'ha e c'è la catena con la medaglia, però non è mai stracciato. Già fa un po' di studio per mettere la mano, gira la testa per non mettere, l'ha capito. Alla fine mi incazzo, lo sgrido e si ferma. Ah, anche questo, lo sgrido, si blocca però, da voi, andai vicino al macone, si gratta e tira va, l'anello che c'è, che la mantiene, l'ha fatta beffa, è vicino a Giurampando. Cos'è, maschio quello che c'è? Grazie. Maschio senza le palle. Lei casta. L'ho fatto io, mi figliura, me l'ha fatto va. Ha detto, cosa avrei fatto va, l'ha giù compreso. Ma, no, io non gliel'ho fatto. Me l'ha detto il veterinario se lo volevo fare, no. Lo lascio naturale com'è. Se capita che trova la femmina, si accoppia e via, come ho fatto con la coccherina e via. In via, come si chiama? Dove c'è la caserma, va, Piazza Castello. Ho trovato una ragazza con una cocker femmina e mi ha detto, che bello, Taiso, questo quell'altro si è fermato, stavamo parlando. Taiso l'ha approfittato e si è applicato una femmina. E lei, no, che casa non posso tenere di cuccioli che io lavoro, come faccio? L'ho dovuto staccare, papà era plastivato. Ma come non l'ha fatto un nodo? Se no avevi visto. No, era appena l'avevo appena messo. Capito. Sì, grazie, guarda, io se mi facevo i cuccioli in casa, come facevo? Ed era anche una bella ragazza, io lo stavo per dire. devo riapprofittare, no? Se tremurende, se l'ha già detto io, a Rodrò se tremurende. Va bene, lo dico. Ah, ridimmi, capito, che ridimmi, ma c'è tremorende. No, Tesoro no, Tesoro abbaia quando ci sono le fuche d'artificio a Capodanno, li abbaia, ma non è che li teme, li abbaia perché se te rumore è forte. Certo, sono tremorende, c'è. E a me mi è capitato con la pistola una volta a Capodanno, stavo sparando con una pistola a scacciacani e mi è rimasto messo il colpo in casa, sono andato a metterla a posto, Tesoro vicino a me, boh, e faccio di un colpo, cazzo, comincia a tremurare su gani, non si regge ai piedi, e le gambe di dietro, non si regge. Certo, no, io ho appena giù coso, è cominciato a tremurarsi. Speriamo che non è forziato questi droni, anche se no fai tutta la notte così. Speriamo che calmi. E quando piove te ne dà stazionaria a te? No, non me ne dà stazionaria, no. Invece che gli attacchi uno strumento. Io ce l'ho attaccato e uno e uno. Uno e uno, non me ne dà. Probabilmente è anche perché l'abbiamo sigillata bene. Non ho pensato a risparmiare, vulcanizzate, ragazzi, un buco, di a cominciare da dove non dovevo mettere, non l'ho fatto girare tutto quanto, sino ad arrivare a giù. Ne ho messo un me vulcanizzato. E anche in quell'antenna che ho messo io, quella in alluminio. Quella, quella l'ho, ho messo il nastro vulcanizzato, ne ha giubuto un bel, anche il coso gli ho isolato, il piede gli ho isolato anche. Pure io. E dopo sopra vulcanizzato gli ho messo un nastro, che di solito il nastro si stacca quando lo metti, per più di due anni non si è staccato ma con un nastro. Il nastro di quello buono l'avevo preso da Cusano, ma buono però non si stacca ma così da mazzo. Ma no, io ho quello che usano, usa l'Enel, di quel nastro lì che non si stacca, bannuta. E così poi lo tiri e tira bene. È un'altra cosa, dai, non è quello so plastificato, questo qui cazzo proprio tira, quando tu lo tiri, tira bene e si agglomera bene. No, questo quando tiri si fa, a tirarci fa di vini e vini, e lo devi tagliare con la forbice. E vai, vai, cuocone. E vai, mascherato. Ah, in te che fa vedere, ma se vuoi come nemico, fa vedere. Buonasera Luca. Andiamo, andiamo, carta. Ciao Luca, dove era la pesta mascherata? Oggi l'ho palestra. Oh, stavo scendendo l'aria adesso, ma avete sentito i tuoni? Sì, hai già sentito. Ma in macchina virai? Cosa? Quella c'ho in macchina. Guardate, se sei in macchina, perché ci sente un sacco di scariche? No, a casa dopo. Ma che dobbiamo mettere in macchina? Ma se no. A parte fatto non c'ho tettuglia io, c'ho la. C'ho il vetro sopra. La mia è col coso si chiama. Che si apre sopra, capito? Hanno inventato un'antenna, ma lo stavo dicendo, un genio, questa antenna della Midland che si attacca al vetro e dall'altra parte si attacca dall'altra parte del vetro e c'è una centralina che poi va a, dice che spara un bel forte, se la presa uno che c'è il camper che è un bel forte come antenna. E vai, va bene. E così mi ha detto il giro, ha detto che lo sente un bel forte, che va bene. Praticamente si attacca tipo adesivo così, al vetro. E poi dall'altra parte fa come una calamita, no? E si deve essere magnete, no? Non so cosa sia esattamente, però c'è la centralina dall'altra parte che poi va attaccata al baracchino. E dice che cazzo si sente bene, l'antenna non è nemmeno grande, è corta, però dice che si sente bene. Vabbè, meglio così, meglio. No, è la soluzione per metterla nella macchinatura, no, se tu c'è il vetro sopra, è quello che ti volevo dire. Ma non ce li puoi in macchina lì. Perché? Che macchina c'hai? La C3. C'è il vetro, non lo sapevo. Tu c'è apribile, ho capito. E non entra acqua? No. Perché solitamente questi tuccini hanno quel problema, che si consumano le guarnizioni dopo di centraio. No, non entra acqua. Capo, va bene quella. E a voglia. E sono macchine, sono treni. Sì, no, ma che treni, oddio. E chilometri quanti ne ha? 184.000. Che cattena. E vabbè, siete un tabello fatto italiani. Io la mia l'ho venduta con 350.000 chilometri e sta ancora girando la Opel. Addirittura quanto? 350.000. Di benzina? Benzina e gas. Che andava a gas. Ma erano i motori della General Motors, adesso non li fanno più, capito? Quei motori lì non li faccio più nulla. Io guardo. Quello che gli ho fatto, l'unica cosa che gli ho fatto a quella macchina è cambiata la valvola, quella che c'è nella marmitta, che costa 80 euro. L'unica cosa che gli ho fatto, poi per il resto sono tagliati. Le gomme, vabbè, le cose di consumo, però di motore non gli ho mai fatto nulla, le frizioni, nulla. Immagino. Poi ripeto le secondi, tu arrivo, che vado in bagno adesso. Che ho già cenato, me ne vado presto a letto, devo mattina alle 3:30 sono alla sveglia, adesso me la metto avanti, ripeto. Sì, purtroppo è così. No, quelle macchine sono buone, sono. A me me l'hanno fatto in sostituzione la C3, me l'hanno data. Ed è una macchina buonissima. Ma le macchine francesi, la Citroën, la Peugeot. Mia moglie c'aveva la Peugeot, c'aveva, ce l'ha ancora, non la sta più usando lì, ma ce l'ha in casa, e c'ha più di 120.000 chilometri, e sta sempre andando. Il mio genero ne ha ritirato una, ne ha pagata 500 euro, ed era accidentata davanti, si era acconciata, era da darmi figliura a darla, la stato operando lì adesso, la stato operando, l'ha messa a posto tutto quanto, ed è nuova roba. E bello, bello, bello. Mi pare roba di 2.500 euro di danno ci ha detto. Vado da ciambato tutti gli imbecili, da ciambato. Anche il cruscotto gli ha cambiato perché c'era l'airbag e gliel'ha cambiato. Ha portato tutto nuovo. Vabbè, lui è meccanico, si arrangia per queste cose. Ma era nuova come macchina oppure era già, diciamo, già sfruttata? No, era nuova come macchina. La Dipa ha detto, poi l'ha presa e gliel'ha ritirata mio genero. L'ha portata direttamente dal carrozziere, l'ha portata. Ma piano piano ci ha bucato tutti gli imbecci. E si era, era tutta verniciata e così. Il blu era. E adesso se la può vendere anche un bel di più. Ci guadagna. Se è nuova ci guadagna, se ha pochi chilometri. 11.500 euro la sto pagando. Costa per sgomberare ogni possibile ombra. Ha pigliato da a me figliura. È Viraella. Fondata assieme ad Enrico Passali. Che se la voleva vendere, comprarsene un'altra. Station Vego invece l'ha pigliata da Dulissa. Ma non c'è più in Inghilterra tua figlia, è venuta qua. Quattro giorni è venuta, c'è stata, ma è da un bel che non telefoneggia. Sempre lì, non si muove da lì, dai. Sta lavorando parecchio, sta lavorando, sta rientrando tardi a casa anche. Sta rientrando perché va per le case, va. Sta guadagnando più così che rimanere fisso in negozio. Ah, ecco. Cosa fa? Pulizia. No, lei sta che ti sta a fa? Primo contratto. Unghie, sopracciglia, labbra. Tutte queste cose fa. Ah, estetista. E prima lavorava per un negozio. Ma lavorava in un negozio, lavorava. Se ne era più libera. Ah, ma te andai a trovare in negozi e scendi e rivendi da casa pure. Beh, sacrifici sono, Però così non paga tasse al limite, se non fa spatture, se non fa in nero guadagna bene. Tu le tasse le paga, è un bel culo le paga. Ci sono voluti 8 anni per individuare l'area dove costruire. Più poco di qua, ma le paga. E qua non ne trova come estetista di busti. Ma non pagano come pagano là, hai compreso? Là pagano bene, pagano. Gennaio a Serafino, il marito di casa. 500, 1000, 1500. Lo so, lì è diverso. Io avevo un'amica che il compagno faceva il cuoco e lei lavorava in sala, in questo ristorante, e gli aveva dato anche la casa sopra il ristorante, quindi loro lo facevano che scendere le scale erano al lavoro. Pagata luce, acqua, tutto gatto, capito? Tutto spesato di tutto, pigliavano un bel di là. Sono ben pagati. Ultimamente c'era questa qua che l'ha presa per una settimana a fargli le sopracciglia e andava chissà, andava ella per figliura, spesata di tutto. Quando ha finito di fare del gozo che andava presso roba di 10.000 pound a dare. Cos'era una persona importante questa? Una specie di coso, come ti si chiamano, ispirata era, e lei doveva acconciarla per me, c'aveva questa che la truccava e lei gli aggiustava le sopracciglia, le unghie, si chiamava Gurori. Era una modella che quelle sono pagate bene, quindi a sua volta ti possono anche pagare. Solo che a chi piglia un di là è difficile che li mulli pure. Sono secchi più di là. No, l'ha fatto un assegno in sterline, l'ha fatto. E mia figlia Biato ce l'ha versato in banca. Vabbè, ha fatto bene. Quando capita così sono occasioni che non ti puoi speccare, capito? Anche se devi stare appresso. Però la cosa è buona, dai. Bisogna sfruttare certe occasioni. Cagliassa ha perso il treno. Sì, no, Pagliccio rimanda tutte quelle che c'aveva, che fa ogni settimana. Le rimanda e anda da una ghetta conquista, spesa da di tutto. Lui deve andare sempre appresso, ha finito, è rimasta contenta pure. Dice, quando ti chiamo, vieni. Un ragazzo sensibile, rispettoso. C'è il numero suo, c'ha. È capace che adesso la richiama. E gli dice di bocca. Quando è ispirata che fa, la chiama e poi guadagnano quel po' di su. Sì, questa è la terza volta che l'ha chiamata. Adesso dice che deve andare non so dove. Vedi che devi andare fuori. E se la portava con lei, spesata di tutto. Buono, così gira pure tutto. Ha detto, già ci si gira e fa con tutto io. Ah, ma di conquista giri ancora di più. Giri. Ha detto, vabbè, fa così. La figlia è lo stesso, prima di credere. Da Bologna, a voi ci ha fatto tanti giri, state tanti posti. All'estero molte volte, Spagna, Francia, è stata... Ostia, ci ha girato un bel, perché qua quando sei qua dove giri di se sempre in Sardegna, invece era Pirino Zero, ma chi dava, che dalla Sambassi, in TV. Ma là invece ha fatto Brasile, la Jugoslavia, in un sacco di posti sta andando, in Germania, si può dire che si è girando tutto gatto, si è girando. Poi non sono più come noi, no, che risparmiamo a nessuno, che hanno via degli impegni. Mia figlia è lo stesso, mia figlia Girellona, le piace girare. Gli è successa anche una cosa, sono andati in Germania, prima di entrare in discoteca ci avevano una bottiglia di birra, stavano prendendo la birra con i bicchieri di plastica, e butta fuori, gli ha detto di buttare via quei bicchieri con la birra, e loro non erano ancora entrati in discoteca, no? Butta via quelli, perché se no non ti faccio entrare. E lei ha detto, figliamo di me, no, buttali via adesso. Gli stava mettendo le mani addosso, si è messo un amico in mezzo e stava succedendo mezzo casino, capito? A tutti i costi li voleva far buttare via la birra. No, da mia figlia è andata in Messico a trovare la compagna che ha lavorato insieme a lei, l'ha invitata. E che si dice, l'hanno filmata e lì è migliore, siccome ha fatto coso di karate e tutto quanto. Ha detto di Sassigaimo in inglese, ve l'ha detto di Sassigaimo, se no pigliava a golpi. No. Poi ha potuto rimanere in nato, visto a me figliola. Mi figliola non ho visto più, ti racconto una giussa, pensate che è giusto. Certo, ha detto. Ci sono intervenuti i poliziotti e dicevano la colpa la sua, gli ha detto di star fermo e mi metteva le mani addosso. Cosa dovevo fare in inglese, sempre va vedendo, cosa dovevo fare? Mio fratello mi sono difesa io, è meglio di girare buttato, l'hanno detto 15 giri, l'hanno detto a Gizzo, certo. Nella giornata mi ha fatto vedere il botto che documenti era fatto. Oh yeah. Quando vanno all'estero sempre c'è qualche casino, capito? Non so come fa tranquilli, sono provocatori e cose. Solo che Manuela, mia figlia, diciamo che risponde, non è la tipa che si fa di burrito tra i bini, capito? E come gli ha risposto, questo qui ha preso e gli stava mettendo le mani addosso, si è messo l'amico in mezzo, è arrivato l'altro buttafuori, e insomma stava succedendo mezzo casino. E alla fine se ne sono andati, perché certo lo faceva anche entrare in quella discoteca, che si era ridotti gusti guai. Oh, in Inghilterra la matessi cosa, amico. Una ciocca di giovani stravaganti. Non vedo molti burri italiani mi sono stravaganti, specialmente i romani. Certo, a me è capitato uno, mi era fatto vedere cosa era. Certo, è uscito tutto quanto molto male, è uscito. C'è il giro dei poliziotti. E l'ha arrivato ancora di più, l'ha massacrato. E adesso anche in Italia ci sono queste bande microcriminali che vanno a violentarsi le donne, non hai visto cosa fanno? Boh, io non comprendo cosa vuoi dalla vita di sì. Se non comincia il provvedimento a codici di fura dai nobili dall'Italia, continueranno sempre a esserci brutte bande. Sì, stanno formando queste bande, vogliono andare a conquistare i territori, vogliono andare prima a partire da Roma per andare a Napoli, e cosa, i napoletani gli avevano detto che se vanno a Roma, a Napoli non ci arrivano sicuro, se però ci arrivano non ce la fanno arrivare in Sardegna dove devono venire. I sardi gli hanno detto che ci avevano i maiali brutti e che ci avevano fame. E infatti, se ne fate di pure la telamata, ai maiali danno a mangiare. Ma non hanno fatto nulla, perché questo capo ha detto: vi raduno tutti quanti, ci raduniamo tutti a Torino, da lì partiamo tutti insieme, tanto un biglietto non ne paghiamo, perché noi non paghiamo i biglietti, andiamo sulla metropolitana, non paghiamo nulla. Praticamente la polizia a Napoli li stava già aspettando, c'era cosa di polizia, come arrivavano alla stazione aveva lì già il cigarro. Ora non sono già da voi, andava a fare Trento, ne c'è mezzo casino lì. Si fanno chiamare Maranza, ne mi sentite? Volevano raggiungere anche la Sardegna, volevano raggiungere. Metà stavano in nave e subito si chiamavano gli elicotteri, subito in invasione pura. In invasione. Ma in questo caso. Ma un po' di fantasia già nisce. Ma non ci arrivava le Sardegna, perché dovevano passare prima a Napoli, e i napolitani non so vasi. Da poi dobbiamo andare in Sicilia, i palermitani gli hanno detto vieni qua, vieni, ti acconciamo noi. Certo, no? Sono criminali, dici? Vogliono fare la Sardegna un coso. Oh, dici che a Cagliari 3 o 4 hanno arrestati di quelli lì. Oh, praticamente il capo di Maranza, c'era questo qua, gli ha detto non fate niente, senti tutti i parole, e lui gli ha fatto bla bla bla bla bla, vieni qua che e fammi vedere quanto sei forte, non so, sfida la gente, capito? Sono ragazzini, non sono le macu persone grandi, sono ragazzini. Gli si allacciappano, te li stroncano. Quando ti ribocciano dentro ti ricominciano una giussa e vedi che fate in basso a tutto. Solo che si muovono in massa, capito? Si muovono tutti insieme. Lui ha detto, dobbiamo esserci tutti in Maranza che ci sono in Italia, devono venire tutti a Torino, poi partiamo tutti da lì insieme. Hanno visto che a poco nei negozi che hanno fatto il soccorso del calcio. Nell'anno tutti piano piano prelevati da uno a uno, gli anni prelevati. Ma rischiano condanne serie, rischiano. Perché si credono facendo guerriglia alle persone, ma te li immagini, vengono qua, si prendono il reddito di cittadinanza, si migliano in tutto quanto e da qui si muovono in muro a fare i prepotenti, ma aveva ragione Salvini a bloccarle. Qua io a Salvini non lo posso venire, però su quelle cose lì aveva ragione. Sì, aveva ragione, sì, solo che papà non hai visto anche sì, che hanno firmato con quella alla Pecciotti che vuole il risarcimento buoni, e sono che ti hanno aggavato da Ravammi, vuole il risarcimento buoni, non lo so io. Adesso anche questi nordafricani sono tutti d'accordo, vanno in massa, spaccano macchine, rompono viti, addirittura io gli ho visto la manifestazione tirando i sassi alle macchine della polizia. Ma ti sembra giusto tu che vieni qua a fare guerra? Aiuto! Ma subito delle cose, accompagnarli nella terra sua e dalle mani alla rebulizzotti di Matteo. Teneteveli conto. Invece no, dovremmo subire anche se pure dovremmo subire. La cosa che deve venire una borsa malla piena di leoni e la fa di dretto, così non romperebbe i cani. Ma poi ti dicono che sei malvagio, ecco cos'è. sì, ma cioè, e loro più buoni sono facendo queste cose, circondano le donne e le violentano. Se gli avevi rimasto due pillure o la tua pulire ti rabbia giù da te, a me no. Ma anche a me, anche se aveva fatto ricerca, mi aveva fatto passare la gana, anche se mi aveva fatto passare. Pure ci sono padri che hanno subito queste cose, che hanno violentato la figlia. C'è quella coppia che l'hanno circondata, l'hanno pestata e adesso l'hanno violentata. Te l'immagini, poi gli hanno rubato anche la roba che avevano addosso. Io so che c'è un amico che ha la moglie, si chiede di violentarla, se non si gira chissà, questi qua se non si giravano si è trovato in brutti guai, si è trovato. Ma com'è l'hanno aiutato e... Ah, chi ti ha fatto una giuscia? Erano in sei, da sei. I giusci tutti bene, tutti ammaccati nei giusci. Come che non me l'ha raccontato? Ma qua Sassa? No, in continente era. Infatti si è fuggito anche da... Se ne è tornato in occhio, se ne è tornato. Beh... per subire certe cose, perché al nord specialmente succedono queste cose qua, non si sente altro che nordafricani, marocchini, tutta questa gente così, albanesi, che violentano donne, che fanno questo, che fanno l'altro, rubano catenine, cellulari, fermano la gente, gli danno la susa, gli rubano il cellulare. Ma ti sembra giusto che uno non possa vivere tranquillo nella sua città? Le donne le hanno intervistate e dicevano a una certa ora a Roma non posso tornare a casa perché ho paura. Ho paura, già una volta mi hanno seguito, ce l'ho fatta chiudermi dentro il portone, mi stavano seguendo. È brutto, La moglie mi ha detto no, io non ci voglio più stare qua, ma ne torno a casa mia, davvero. Sto più bene, non c'è tutta questa marmaglia qua, questa violenza. Se ne sono tornati a rubare i sugli, se ne sono tornati. Se ne sono più bene. Hai dato un travaglio, la moglie, uno a te sì. E allora se ne viene. E almeno sono tranquilli. Non puoi stare in mezzo a questa marmaglia, però non dobbiamo essere noi a fuggire, dobbiamo far fuggire a loro. Perché è loro che sono venuti da noi. E come sono venuti se ne devi indurre a casa rete. Ma hai visto che in Sassa di Virciù deve già venire la prepotenza di Uribissuri e Cosu, smerciato e diventano i padroni. Adesso ci sta circolando vigili urbani, pulizotti, a piedi, entro le vie in Sassa di Vecchio. No, poi passa che ti minacciavano. Sì, ma un vigile urbano ha sparato la gamba, lo sai. Te lo so, sì, ce lo conosco quello lì. È più di un anno che fermo. Lo conoscevo, purtroppo. Ah, va, invece, lui li ha mandati via da Sassari, ha mandati al paese suo, hai fatto il biglietto, via, io tornato a casa tua. E adesso gli altri sono rimasti tutti i gaimi, sono rimasti. Io ci ho passato la Fatima. È veloce pure ciò che ho passato. No, io non ci sto più passando lì. Prima qualche volta passavo, adesso non più. Già passavo poco prima, ma proprio niente, perché una volta sono passato in Maria Chimera nelle sentinelle. All'entrata del vicolo c'erano tutti quelli di colore, ma 4, 5, tutti all'entrata del vicolo, chi t'abbaindava, le cando passava a piedi, capito? E non sai mai con chi hai a che fare. Una volta solo mi che sono andato alla messa di Natalino, che sono andato in quella chiesa che c'è lì a San Donato, ed era tutto pieno di gente di colore, in quella zona lì dove sono andato io. Ero solo, capito? Passavo e tabellava le gomette se fosse una bestia rara, che solito le bestie rare non lui. Ma là non ve ne so più, no. Non ve ne so più sentinelli, cosa, no. Mette prima. Avanti venito di fare i sentinelli, ecco. Oh. Avanti deve muovere, ne deve andare anche. Io ho letto un articolo di questa signora che abita sotto al Ponte Rosello. Ha detto a vedere cosa c'è di notte, di spaccio di droga, di prostituzione sotto il Ponte Rosello. Tutto pieno di risaienti. Ci stanno circolando le polizie, la polizia, i carabinieri, tutto per circolare in Chivi. Non ci fa più nessuno, no? Ma già si trovano altri posti, vanno anche, hanno fatto vedere, se c'è la notizia, visto dove vanno, in mezzo ai boschi, poi dove passa la strada, le macchine lo sanno già, che ci sono gli spacciatori, si fermano, loro come vedono la macchina ferma, si avvicinano, gli danno la droga, gli danno i soldi e passa. E con questi c'è la notizia, va un coraggio da leone, da pisciglio, vieni qui, dammi la droga non si vende, seguici, vai via, vai via. Poi hanno cominciato a tirare la pietre con le bottiglie rotte e tutte di b***o. No. Ha denuti, non penso più circolenti io. Ma ne sto in casa, sto più tranquillo. Ah, ma qui saiente, da cosa, da Pradaneta sono sparite anche le lucciole. Ma lo sai che adesso si stanno attaccando anche, visto che mettono quelle trecce nei pali per la massa, quelle trecce di rame, le svitano e se le portano via. Sono tutti senza trecce in pali, sono pure di bullissimi. Ma diciamo, da quando sta circolando di più polizia, carabinieri e coso, no, forse pagisce che non accende i lampioni. L'altra notte io alle 2:30 ero a Plattamona e sono sceso, era a Portotore, poi sono passato a Plattamona e io che pensavo a buggiare la rotonda e sono entrati i finanzieri a finanza. A Portatore, sì. No, a Plattamona, nella rotonda, sono entrati, hanno fatto il giro. Io l'ho parcheggiato, stavo guardando il mare, così, perché prima era a Portatore, poi verso le 2:30, e io stavamo tornando, io che passavo alla rotonda, se volevo passare della rotonda, mi sono fermato a guardare il mare, così, è entrata la finanza. Ma in quel bar che ci sono, quei posti lì? Ha girato con la macchina, è entrata dentro la rotonda, ha girato, ha fatto il giro, ha guardato, ha girato e poi è andata via. Ah, un giro così, a controllare. Adesso è tutto un controllo. Ecco cosa è. La macchina viene di ritiro subito, lo vedi? Ti girano ancora di più. Se vedono facce strane ti fermano, capito? Se vedono facce pulite come la mia, mica mi fermano. Se vedono facce rosche, magari ti perquisiscono. Infatti. Oi. Ma lascia. E comincio a sarrare io per la mia capacità. E comincio. Beh già, ci risentiamo alle prossime. Grazie dalla parlantina, Maud stasera. Una bella chiacchierata, già ci voleva. Ok, ci risentiamo alle prossime già. Ciao, stammi bene. Tanto tu devi scendere il cane. Ciao a tu, e adesso vedo, se non sta piovendo comincio a scendere, ne approfitto, dai. Vabbè, dai, ci sentiamo, buona carica quando la fai. E tante cosce belle. Ok, ciao già.